Incontri di Gianfranco Fabi. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai anche in te, due non li deludere, credono in te. Tre, non farli piangere, vivono in te. Quattro, non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche e tutto lascerai, per le cose belle ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. Ragazzo, non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei. Ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Con questa espressione di amore verso i giovani, con Gianni Morandi, Un mondo d'amore, iniziamo l'incontro di questa sera. Buonasera a quanti ci ascoltano e buonasera a Delio Borgonovi. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Elio Borgonovi, professore di economia e management delle amministrazioni pubbliche presso la Bocconi, una serie di altri incarichi nel campo delle associazioni di ricerca e studio, nel campo appunto del management delle amministrazioni pubbliche, della sanità, direi un bocconiano in tutta la sua vita, laureato anche alla Bocconi. Ma iniziamo parlando di Gianni Morandi, perché che cosa le ricorda questo mondo d'amore? Mi ricorda quando studiavo in Bocconi, perché io avevo, come molti studenti, una stanza, vivevo in affitto vicino alla Bocconi e per combinazione i vicini di casa, l'appartamento accanto aveva la televisione proprio vicino alla stanza dove io studiavo, e quindi ogni giovedì sera, se ricordo bene, sentivo questa canzone che mi introduceva ai miei difficili studi. Difficili studi, sì. Già a quel tempo erano difficili, a Bocconi è sempre stata un'università impegnativa ma di soddisfazione. Direi di sì, almeno io non posso lamentarmi, direi. Difficili sicuramente, ma... Erano anche i tempi in cui i giovani avevano grandi speranze, come dice Gianni Morandi. Un po' sono state tradite queste speranze, professor Borgonovi. Sì, ma io ho chiesto di iniziare con questa canzone anche perché mi sembra che le due cose, no? Primo non tradirli e poi non deluderli, è qualcosa che dovremmo tenere ben salda in mente oggi, noi della nostra generazione, ma anche qualche generazione dopo la mia, insomma. Certamente. Ecco, ma rispetto a 40 anni fa, diciamo così, come sono cambiati i giovani, secondo lei? Cosa vede nei giovani di oggi rispetto a quanto si sentiva quando era giovane lei, eravamo giovani noi? Ma io ho una visione dei giovani forse leggermente diversa da quella visione che sembra dominare, nel senso che io sono, diciamo, in una situazione, se vogliamo, privilegiata, perché la Bocconi in un certo senso fa incontrare dei giovani che sono in una situazione in cui hanno meno problemi per quanto riguarda l'occupazione. Certo. Proprio nei mesi scorsi il rettore ha detto che il tasso di occupazione dei bocconiani dopo un anno dalla laurea è 94,5%, insomma, quindi sono, sì, privilegiati. Però anche girando in altre università italiane vedo che i giovani, se stimolati adeguatamente, sono in grado di avere motivazioni sul futuro simili a quelle che avevamo noi. Indubbiamente quando, insomma, negli anni dal 65 al 70, 69, si era in un periodo, no, in cui c'era l'onda lunga dello no, del miracolo economico, era l'onda lunga, precedeva poi gli anni bui del terrorismo, però insomma in quegli anni c'era ancora l'onda lunga, c'erano opportunità occupazionali rilevanti, quindi era tutto l'ambiente era molto più proiettato in un futuro chiamiamo un po' più radioso, un po' migliore. Oggi le incertezze che vengono dall'ambiente creano dei problemi ai giovani, però vedo che insomma molti riescono ancora a reagire. Ecco, indubbiamente è un mondo più competitivo quello attuale. Negli anni passati c'erano le aziende che cercavano gli studenti, che quasi prenotavano gli studenti, soprattutto quelli della Bocconi, prima che fossero laureati. Adesso devono forse farsi avanti di più, anche se la preparazione resta molto valida e molti vanno anche all'estero. Come giudica il fatto che i giovani vadano all'estero a fare esperienza e poi magari ci restano perché, essendo bravi, fanno anche carriera? No, ma questo è fuori di dubbio che sia un aspetto assolutamente positivo. Io non credo e non mi convincono mai le analisi nelle quali si parla di fuga di cervelli. Preferisco dire, come molti peraltro dicono, non invento nulla, no? Mobilità. Però io preferisco dire mobilità delle persone, non dei cervelli, perché a me interessano le persone con il cervello, il cuore, lo spirito, l'anima, chiamiamola certo, come vogliamo, quindi mi interessano più le persone. Quindi il fatto che ci sia mobilità, che la gente vada all'estero e ci resti, va benissimo. Quello che forse manca come sistema Italia è proprio la capacità di creare occasioni per ritornare, no? Non aspettiamo che ritornino quando ha finito la carriera, ecco. Certo. Ecco, lei introduce appunto un tema che volevo approfondire, quello di come il sistema economico delle aziende pubbliche da una parte e delle aziende private dall'altra accoglie anche i giovani. Lei adesso è docente di economia e management delle amministrazioni pubbliche, ma è stato anche responsabile della scuola di direzione aziendale della Bocconi, è stato presidente dell'associazione per la formazione della direzione aziendale, quindi ha esperienza sia nel campo privato sia nel campo pubblico. Quali sono i problemi attuali per le aziende private da una parte e pubbliche dall'altra? Possiamo fare questa differenza? Dobbiamo forse fare questa differenza nel far crescere la professionalità dei giovani e nel accettare e accogliere i giovani come forza propulsiva per entrambi i settori? Professor Borgonovi. Le differenze vanno fatte tra il pubblico e il privato, questo sicuramente, però c'è un elemento di fondo che vorrei sottolineare poi con alcune conseguenze. Primo, che a mio parere oggi si pone troppa attenzione alla competizione individualistica. Questo cosa ci comporta? Comporta il fatto che noi come sistema Italia diventiamo ancor più divaricati nell'accentuare i meriti degli eccellenti nel campo dello sport, nel campo dell'arte, nel campo stesso della ricerca, no? Andiamo a cercare le stelle. Nella mia università molti dicono noi vogliamo le stars. Io recentemente ho detto che come nelle squadre di calcio, come negli sport in team, insomma, dove si gioca con la squadra, qualche stella sicuramente è necessaria, però forse è molto più utile avere una collaborazione, una cooperazione, si dice gioco di squadra. Credo che in Italia siamo sempre stati deboli nel favorire questa cooperazione, meglio, in passato c'era, poi col predominio di altre culture abbiamo copiato da altri no, l'eccellenza individualistica senza avere ad esempio le condizioni del mercato americano. Certo. Il mercato americano è di 300 e passa milioni e poi anche lì abbiamo visto che parecchi sconquassi dall'individualismo ne sono, che, certo, ne sono che, derivati. Ma ecco, è un tema questo da approfondire, questo tema appunto del fatto di dare delle possibilità anche di azione, di iniziativa, di avere una capacità di lavorare appunto con le capacità individuali, ma in un gioco di squadra, in una capacità delle aziende pubbliche o private di valorizzare questa realtà. Ma lo facciamo nella seconda parte del nostro programma. Ci fermiamo un attimo, quanti ci ascoltano restino con noi e con il professor Elio Borgonovi. Incontri. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Come i comandamenti di Gianni Morandi sull'amore. Riprendiamo il nostro incontro con Elio Borgonovi, docente di economia e management delle amministrazioni pubbliche presso l'Università Bocconi. Comandamenti sull'amore, ma comandamenti che valgono anche per i giovani verso la società e della società verso i giovani. Parlavamo appunto nella prima parte del nostro programma con il professor Borgonovi della capacità appunto delle aziende di accogliere i giovani, di valorizzarli, di ricercare non solo le competenze e le capacità individuali, ma anche di valorizzare il gioco di squadra, la possibilità appunto di realizzare qualcosa attraverso una valorizzazione di tutte le competenze delle persone e quindi per far crescere poi complessivamente la società. Allora, professor Borgonovi, molto spesso si accusa un po' la Bocconi, i bocconiani, di essere un po' i primi della classe. È un po' la logica della vostra università, se posso essere un po' malizioso, che ogni tanto sviluppa forse un po' troppo l'individualismo? Ma io non voglio fare la parte di quello che prende le distanze dall'istituzione a cui ha creduto, crede, crederà e da cui ha avuto molto, non dico tutto perché nella vita non è che semmai tutto sia dalla famiglia. Certo. Ecco. In effetti questa immagine c'è e se c'è l'immagine qualcosa di vero c'è. Quindi non neghiamoci, non giriamoci attorno, sicuramente la Bocconi è un'università che nel bene e nel male, certo, io presumo più nel bene, finora almeno, beh, nessuno perché è perfetto, il futuro non si può mai ipotecare, nel bene ha recepito gli elementi della valutazione del merito, della competizione e via, però c'è anche un pochettino di debolezza, insomma, che la gente poi che esce dalla Bocconi se la tiri un po' e che voglia essere i primi della classe, che molte volte insomma non riescono a capire, non dico a volere, ma a capire che c'è anche la cooperazione, questo è vero. Personalmente, diciamo, non voglio prendere le distanze, però non voglio neanche fare dire delle falsità. No, personalmente ho una cultura abbastanza distante da questa. Ma già, hai fatto... non mi sarei occupato di pubblica amministrazione, ecco, di sanità, di interesse generale. Ecco. Proprio sulla pubblica amministrazione volevo portarla, adesso appunto ragionando un po' della realtà della pubblica amministrazione che viene dipinta spesso come il luogo delle competenze, ma più che delle competenze, delle procedure, delle formule che devono essere adattate alla realtà in cui c'è poca possibilità di essere creativi. Ecco, la pubblica amministrazione è cambiata negli ultimi anni, sta cambiando, c'è prospettiva che possa cambiare, diventare veramente efficiente al servizio dei cittadini? Un suo giudizio di massima, professor Borgonovi. Innanzitutto c'è da fare questa considerazione, che nella pubblica amministrazione ci sia stata sempre una certa creatività, questo credo che vada ripreso e bisogna fare una riflessione, perché la pubblica amministrazione, se riflettiamo bene, è quella che si dà carico dei problemi più complessi. Cioè, perché quando ci arrivano gli altri va bene, poi dopo se c'è la crisi, la pubblica amministrazione, quindi la pubblica amministrazione è stata costretta a essere creativa. Il problema è che molte volte è creativa senza poi valutare gli effetti e molte volte la creatività viene oscurata dalla burocrazia, dalle procedure, questo è vero. Se andiamo nel totale, certo, degli incontri che abbiamo con la pubblica amministrazione, ancora oggi prevalgono i momenti burocratici. Questo, diciamo, va altrettanto onestamente riconosciuto. Che stia cambiando, io credo di sì. Sta cambiando purtroppo troppo lentamente. Ecco, anche perché le procedure sono comunque una garanzia di fronte a tante difficoltà, di fronte ai ricorsi al TAR, ai ricorsi al Consiglio di Stato, uno che segue le procedure si mette con le spalle coperte. Sì, ma io una delle cose che insegno sempre, dico che la difficoltà nell'amministrazione pubblica rispetto al manager di un'impresa è che non c'è equilibrio tra rischi e vantaggi, mentre nell'impresa uno può correre dei rischi, ma se poi fa delle scelte giuste, gli vengono riconosciute o in termini economici o in termini di carriera, spesso nell'amministrazione pubblica chi cerca di risolvere un problema, no, se va bene non riceve niente, o altrimenti il rischio è di, certo, ricevere un avviso di garanzia, una denuncia al TAR, un ricorso al TAR, poi una denuncia alla Corte dei Conti. Io, certo, mi ricordo un collega che è stato direttore generale per 10, direttore amministrativo e direttore generale di aziende sanitarie, durante un convegno ha detto: io nella mia carriera ho avuto 311 ricorsi al TAR, 17 denunce alla Corte dei Conti e 2 procedimenti ancora. Ma lo portava come elemento di merito? No, dice, io ne sono sempre venuto fuori, col TAR ho sempre vinto, con la Corte dei Conti ne sono sempre venuto fuori tranquillo, dice, però, dice, indubbiamente non è stata una bella vita, dice. Certo, come minimo ha perso tempo, ecco, come minimo ha perso tempo, ecco. Come minimo, certo, dice, come minimo non ho dedicato tempo a risolvere i problemi dei pazienti. Certo. Ecco, ma proprio abbiamo parlato di direttori sanitari di un ospedale, di presidi di una scuola, secondo lei è giusto paragonare queste funzioni pubbliche con il capo di un'azienda? No, no, non è il capo di un'azienda. E nell'amministrazione pubblica, ritornando al concetto, io certe cose le devo fare, ma devo anche convincere, devo anche condividere, devo anche trovare il consenso, o altrimenti diciamo che abbiamo esautorato la democrazia. Allora il capo d'azienda, fino a quando resterà così, vabbè, ha un potere molto più forte. Ecco, poi non si rischia in questo modo di, diciamo, di promuovere delle persone al loro livello di incompetenza? Un bravo chirurgo può non essere un bravo direttore di ospedale. Ah, certo, certo, ma questo l'abbiamo sempre detto, e purtroppo uno dei problemi è che molte volte per dare un riconoscimento formale o anche economico professionale io promuovo le persone, no? E invece le persone dovrebbero stare al loro posto, però attenzione che il partisan dell'organizzazione vale anche per molte imprese private, eh? Cioè, non è che poi nelle imprese private i vertici ci vanno sempre i migliori, insomma, sappiamo il capitalismo familistico o di relazione, come si dice in Italia, insomma, non... quindi vabbè, forse nell'amministrazione pubblica poi quelle indagini che fanno vedere più di qua più di là non mi hanno mai appassionato. A proposito di indagini, professor Borgonovi, si parla spesso, è quasi un luogo comune parlare di mala sanità, ma in effetti come sta la sanità in Italia? Dunque, la sanità, sintesi, il sistema sanitario italiano è ancora uno di quelli che nel rapporto indicatori di salute spesa è ancora uno dei migliori. Non voglio richiamare l'indagine OMS del 2002, però quella di Bloomberg dell'anno scorso, ma comunque, insomma, in termini di indicatori di salute, attesa di vita, mortalità, morbosità, eccetera, eccetera, infantile, neonatale, dell'età adulta, beh, insomma, gli indicatori anche solo epidemiologici, insomma, non ci fanno star male. Se poi vado a vedere quanto spendiamo 2 punti e mezzo di PIL meno della Francia, della Germania, leggermente inferiore a quella della Gran Bretagna, vabbè, non paragoniamo gli Stati Uniti perché è tutta un'altra storia, certo. No? Ecco, però detto questo possiamo dire che è molto a macchia di leopardo, questo è vero. Ecco, però è un sistema anche che permette le eccellenze sono qualcosa di positivo anche perché stimolano poi appunto anche altri, diciamo in un certo qual modo un po' in concorrenza ad essere eccellenti, e andare verso l'eccellenza anche nel campo ospedaliero e sanitario. Questo in dubbio, cioè la, diciamo la competizione, purché sia una competizione regolata. Certo. Perché attenzione che se nel campo della tutela della salute e in altri campi di servizi di utilità generale, utilità pubblica, no, non ci sono regole chiare, la concorrenza rischia di diventare distorsiva, come è distorsiva in molti, o distorcente, scusi, certo. In molti altri paesi, cioè. Ecco, però l'eccellente, è difficile... l'eccellente diventa sempre più eccellente, anche se non, no, come italiano forse non è del tutto corretto, ma si capisce, gli ascoltatori capiranno, e gli altri però diventano sempre più incapaci di soddisfare i bisogni. Quindi ecco, bisogna però... che ci sia un'eccellenza che si basa sulla competizione, ma anche sulla diffusione del know-how, delle conoscenze. Ecco, professor Borgonovi, ci sono delle eccellenze, c'è un sistema sanitario complessivo che tutela la generalità della popolazione, possiamo dire che le eccezioni sono, la mala sanità è più un'eccezione che non una regola, il sistema sanitario è ancora qualcosa di positivo all'interno del sistema italiano. Ma direi eccezioni, io invito solo a fare due calcoli, ognuno di noi può vedere in un anno quanti casi di mala sanità ha visto o di cui ha sentito parlare la televisione, la radio, sui giornali. Saranno 50? Saranno 100? Pensiamo che in Italia ci sono quasi 10 milioni di ricoveri, certo. 80 milioni di prestazioni ambulatoriali e via, 500 e passa milioni di accertamenti diagnostici. Cioè, quindi non è per dire che è un lavoro statistico, è semplicemente per dire che è chiaro che l'obiettivo è di eliminare qualsiasi forma. Certamente. Ecco, però ecco, sono comunque appunto delle eccezioni. Il bene è quello, che cosa che va bene purtroppo non fa notizia, dobbiamo parlare di più delle cose che vanno bene. Abbiamo cercato un po' in questa sera di farlo. Solo per concludere con una battuta, professor Borgonovi, comunque dobbiamo essere ottimisti sui nostri giovani. Io dico di sì, dobbiamo essere ottimisti a condizione che ci riconduciamo a Gianni Morandi. Certamente. I comandamenti dicono che di fronte ad ogni diritto ci deve stare anche un dovere. Noi abbiamo una società che da 25-30 anni parla solo di diritti, anche nei confronti dell'amministrazione pubblica, degli ospedali, però pochi doveri. E quindi forse ognuno di noi dovrebbe dire che se io ho il diritto alla tutela della salute dovrei avere anche il diritto, il dovere di fare una vita sana. Non dico, e purtroppo, mangiamo anche un po' di salame, un po', certo, di cose che fanno un po' male, però camminiamo un po', ecco, con tanto questi per dire. Sani consigli pratici abbiamo il dovere, dettato dai tempi, di chiudere la nostra conversazione. Benissimo. Grazie mille, professor Borgonovi. Buonasera a tutti. Buonasera. Io Borgonovi, docente della Codi di Management delle aziende pubbliche, è stato con noi questa sera, lo ringraziamo, così come ringraziamo Pietro della Corte in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, buona serata e buona domenica.